Libia, Putin fa scoppiare la pace. Iran, l'aereo abbattuto è la migliore arma degli USA. Sahel, Macron convoca il G5. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci. The Russian-Turkish brokered ceasefire appears to be holding between the UN-recognized government troops in Tripoli and the eastern forces of General Khalifa Haftar. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leur demande à l'égard de la France. Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, buon lunedì da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. C'è Antonio Tagli, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e quest'oggi Filippo Aureggi in console. 349-238-6666 è il numero per commentare e porre domande sui tre grandi temi che apriremo in questa prima puntata della settimana. Non è stato un weekend esattamente tranquillo, quello a livello internazionale, quindi ve ne daremo conto, come cercheremo come sempre di aprire gli scenari possibili. Su tutti evidentemente il dossier libico, con il grandissimo numero di incontri che si sta tenendo, quello fondamentale a Mosca. Poi c'è il dossier iraniano ovviamente, il terzo giorno di proteste, soprattutto di giovani vicino alle università, dopo la confessione, l'ammissione da parte del regime di Teheran dell'abbattimento per errore del Boeing ucraino. E infine ci spostiamo di quadrante, torniamo nel Sahel che molto spesso vi raccontiamo, perché il presidente Macron ha invitato i membri del G5, quella coalizione che dovrebbe combattere gli affiliati di Al-Qaeda e dello Stato Islamico proprio in Sahel. Di tutto questo parleremo. Su tutto questo vi invito a commentare, lo ripeto, 349-238-6666, anche Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, se amate questo social, i due account da seguire, eventualmente cinguettare, sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio che è Giampaz. A questo punto, Filippo Aureggi, la prima cosa che facciamo ogni giorno qua è misurare la temperatura. Partiamo da Malta, perché il nuovo premier maltese, un avvocato 42enne, Robert Abela, vi ricordate, abbiamo lungamente raccontato le vicissitudini giudiziarie e politiche della piccola isola così cruciale lì al centro del Mediterraneo, il contestatissimo Muscat ha lasciato, adesso c'è un avvocato che promette più rigore e promette di far rispettare la legge. Evidentemente dalla sua, anche questo background fortemente giuridico, potrebbe essere un segnale per la società civile maltese e non soltanto. Perché è diventato automaticamente premier? Beh, molto semplice, perché dopo le dimissioni di Muscat fondamentalmente il partito laburista ha indetto un nuovo congresso e lui si è aggiudicato alla maggioranza delle preferenze. Lo avete sentito anche dal GR, è molto interessante la notizia che è arrivata dal Pakistan e ce ne siamo lungamente occupati, quella sentenza di condanna a morte in contumacia, perché Musharraf non è assolutamente in Pakistan ormai da tanti anni, era stato condannato per tradimento il 17 dicembre scorso, ve ne avevamo dato conto, e un processo iniziato già nel 2013 che era arrivata a sentenza appunto il 17 dicembre dell'ultimo mese dell'anno, e però la Corte Costituzionale si è pronunciata e ha definito non legittima questa pronuncia. Vedremo se dal punto di vista politico vi saranno degli strascichi. Paesi del Golfo, Oman, è morto il sultano dell'Oman, 79 anni, Qaboos bin Said Al Said. Aveva governato il paese per quasi 50 anni, costituendo una sorta di unicum all'interno dei paesi del Golfo, con un'apertura verso l'estero, verso gli altri paesi, molto molto importante. Fra l'altro gli ascoltatori di Nessun Luogo, che spesso sono anche viaggiatori e turisti, sapranno sicuramente come sia uno dei luoghi più belli forse della zona e facilmente visitabile, insomma un unicum a tutti gli effetti. Vedremo se il cugino che gli è succeduto al trono proseguirà nell'opera di rinnovamento ma anche di mediazione fra le varie anime dell'Islam di questo stato piccolo se confrontato ad altri stati della regione. Infine, venerdì vi avevamo dato conto di quella che era la giornata pre-voto a Taiwan, l'isola che dista appena 160 km dalla Cina. Abbiamo raccontato di quelle che erano le possibilità piuttosto ampie di vittoria di Tsai Ing-wen. La presidente in carica è nota per le sue posizioni anti-avvicinamento rispetto a Pechino. Vi abbiamo raccontato come queste elezioni taiwanesi siano state importantissime perché profondo riflesso del braccio di ferro tra Hong Kong, ex colonia britannica e regione a statuto speciale rispetto, regione amministrativa speciale rispetto a Pechino stesso. Ebbene, le agenzie internazionali hanno definito una vittoria a valanga della stessa Tsai Ing-wen, che ha conquistato oltre 8 milioni di voti, quindi il 57% dei votanti. Lo sfidante Han Kuo-yu ha ottenuto appena 5 milioni e mezzo di voti, il 38%. Appena registrata la vittoria, la neo riconfermata presidente di Taiwan ha confermato l'impegno per mantenere indipendenza, sovranità dell'isola e rilanciare anche l'economia. Adesso però iniziamo a affrontare quelli che sono i tre grossi dossier e partiamo dalla Libia. Partiamo dalla Libia e ci torneremo in chiusura di trasmissione. Per che cosa? Beh, fondamentalmente è successo, e provo a ridurlo ai minimi termini, che Vladimir Putin ha invitato a Mosca Fayez al-Sarraji e Khalifa Haftar, cioè i due contendenti sul terreno. Lo stesso Putin insieme a Erdogan avevano invocato un cessate il fuoco, insomma sono avvenute entrambe le cose. La diplomazia turco-russa è riuscita a imporsi come attore principale nel complesso scacchiere libico. È circolata fra l'altra una bozza di accordo fra Haftar e Sarraji, l'abbiamo trovata in rete spulciando con un po' di attenzione. La bozza sembra essere piuttosto generica, bisogna andare poi a verificare come dire, praticamente come verranno applicate e sostanziate queste parole. Quello che è interessante è che si dovrebbe stabilire una linea di demarcazione che in qualche modo va temporaneamente a dividere la Libia stessa secondo le aree di influenza, e poi verrà nominato una sorta di consiglio in cui dovrebbero partecipare 5 paesi più 5, più oltre evidentemente i contendenti e i vari attori che a diverso titolo hanno giocato la loro partita fino adesso, per andare a sviluppare questo stesso accordo di pace e di cessate il fuoco. In mattinata erano circolate alcune agenzie che in realtà sussurravano di una possibilità che francamente dobbiamo cercare di verificare, e lo stiamo facendo in questi minuti, in queste ore, che sostanzialmente assegnava a Khalifa Haftar il controllo di tutto l'entroterra praticamente della Libia, comprese le postazioni petrolifere, e mentre i porti sulla costa sarebbero passati a una non meglio precisata controllo e amministrazione internazionale. Stiamo cercando di verificare se questo sia uno scenario che le due parti possono accettare, o se si sia trattato di quelle prime illazioni, di quei primi rumors, come si dice in gergo tecnico, che circolano prima della firma di un trattato vero e proprio. Mentre a Mosca si vedevano in realtà separatamente con Putin, Haftar e Sarraji, il premier italiano Giuseppe Conte volava ad Ankara e incontrava Erdogan. Hanno appena parlato. Francamente, al di là di una serie di manifestazioni piuttosto generiche per abbracciare la pace e non far parlare le armi, non sarebbero uscite grandissime novità, ma stiamo ancora spulciando le agenzie per capire meglio la valenza delle dichiarazioni. Ci torniamo in chiusura di trasmissione sul capitolo libico quando avremo anche noi le idee più chiare. I fatti si stanno svolgendo con una incredibile velocità, ogni ora è diversa dall'altra, così come ogni ora è stata diversa dall'altra in Iran, dove vi porto. برای بی‌کفایتی یه عده، برای نالایق بودن یه عده، برای این جمع شدی. Le voci che avete sentito sono quelle dell'Iran, soprattutto Teheran, che è scesa in piazza. Perché? Perché nel weekend è arrivata sostanzialmente la conferma e la missione da parte di Teheran che quel Boeing ucraino è stato abbattuto per errore, ma è stato abbattuto. Così un numero imprecisato di iraniani, però i numeri sembrano, dalle immagini, dai pochi video che circolano su Twitter, sui social, abbastanza corposi. La voce della donna che avete sentito dice chiaramente: siamo qui oggi per via dell'incapacità di chi ci governa. Bisogna ricordare che vi erano 40 iraniani, 40 passeggeri a bordo, una sessantina di canadesi. Lo stesso premier Justin Trudeau ha detto che vuole perseguire vie legali internazionali per fare in modo che chi ha sbagliato possa pagare. Ma che aria tira a Teheran? Quella Teheran dove per tre giorni anche le università sono state teatro di una protesta. Quella stessa Teheran che però, badate bene, è quando dicevo che lo scenario internazionale muta di ora in ora, quella stessa Teheran che si era stretta con numeri impressionanti attorno al feretro per quella lunghissima liturgia dopo l'assassinio del generale Qassem Soleimani. Che cosa è accaduto esattamente? Ma soprattutto, lo ripeto, qual è l'atmosfera adesso a Teheran? Ci soccorre nell'andare a tastare il polso proprio della società iraniana Raffaele Mauriello, che insegna all'Università Alameh Tabatabai di Teheran, insegna anche al Master in Geopolitica e Sicurezza Globale della Sapienza di Roma ed è co-direttore di International Journal of Islam in Asia. Professor Mauriello, buongiorno, ben ritrovato qui a Nessun Luogo. Buongiorno, grazie a lei. Allora, la prima domanda è quella che, come dire, si fa di prassi anche a un inviato, e quindi qua io mi spiace, ma le devo togliere la giacca da professore e trasformarla in qualche modo in un reporter. Che aria tira a Teheran in queste ore? Sì, diciamo che allo stesso tempo c'è sgomento e sicuramente anche rabbia, ma soprattutto sgomento, nel senso che non ci si aspettava questi fatti gravissimi. E soprattutto c'è anche tanta stress emotivo. Noi abbiamo avuto, come diceva lei, giorni uno dietro l'altro di grandissime emozioni. Si è rischiato una guerra, già adesso tutti l'hanno dimenticato, ma io vivo a Teheran e sì, tutti aspettavamo una ritorsione americana e poi la risposta dell'Iran. Questa risposta non c'è stata, ma sfortunatamente c'è stato l'abbattimento dell'aereo, sì, e quindi fortissime emozioni. Prima la presenza di milioni di persone, di iraniani, che hanno manifestato per la morte del generale Soleimani, molto amato in Iran, sì, e poi la caduta delle proteste, in questo caso soprattutto studentesche, devo dire. Ci sono state proteste poi di varia natura in varie università di Teheran. Un'altra particolarità è, per quanto dire, che queste cose non sono successe solo a Teheran, quindi c'è molta tristezza, tantissima tristezza, soprattutto fra i giovani, perché lei sentiva i numeri, in realtà il numero di iraniani morti è più alto, non so perché i giornali continuano a affermare il numero di canadesi, però si tratta di soprattutto di iraniani di doppia cittadinanza, quindi sì, soprattutto iraniani per quanto sì, mi riguarda, e quindi soprattutto poi di giovani studenti. Per questo la risposta è stata soprattutto di protesta da parte degli studenti. C'è una forte immigrazione di cervelli, la famosa fuga di cervelli che abbiamo in Italia, c'è anche in Iran, sì, e su quell'aereo quell'aereo che è caduto ci sarebbero potuti essere moltissimi dei miei studenti. Chiarissimo. E quindi sicuramente c'è sconcerto, certo, e c'è adesso rabbia verso le istituzioni che, insomma, hanno nascosto apparentemente, perlomeno per alcuni giorni, l'accaduto e la colpa. Ecco, professor Mauriello, perché secondo lei Teheran per alcuni giorni ha negato quella che per molti di noi era un sospetto piuttosto, come dire, corposo? Ecco, noi non ci siamo sbilanciati nelle trasmissioni della settimana scorsa, però dicevamo che c'era qualcosa di strano, insomma, perché non hanno immediatamente ammesso quell'errore, secondo lei? Sì, innanzitutto diciamo che ci hanno messo tre giorni, che sono stati un'infinità, certo, dalla prospettiva di chi vive qui, però in realtà l'hanno ammesso, già questa è stata una sorpresa per molti, c'è sì, da dire. Io credo che i militari hanno informato subito i vertici e quindi soprattutto il Consiglio di Sicurezza Nazionale e il Capo di Stato, il leader. Poi i vertici politici in realtà del paese hanno preso la decisione, immagino, di verificare in un primo momento che effettivamente quella cosa che sembrava impossibile fosse accaduta e poi di prepararsi ad informare la popolazione e quindi prepararsi anche alla risposta che spesso si aspettavano da parte della popolazione, cioè una sì, risposta di rabbia, una rabbia giustificata. Quindi credo ci sono stati vari elementi che hanno portato al fatto che c'è stato un ritardo, anche se poi in realtà sono di tre giorni, sono italiano, no? Ancora sto aspettando il perché di Mustica, che si sta contando, tre giorni sono infiniti, sì, ma comunque sono tre giorni. Sì, sì. Allora, torniamo all'aspetto più strettamente politico, professor Mauriello, così come dire, le faccio reindossare la giacca che più le si confà, quello di analista, osservatore privilegiato delle vicende iraniane. Lei vive tra Teheran e Roma. Da qui, dall'esterno, sembra questo abbattimento il più formidabile regalo che si potesse fare all'amministrazione Trump. Lo stesso Donald Trump ha fatto un tweet in farsi, si è rivolto twittando con un doppio registro, da un lato demonizzando, come spesso fa il leadership leadership iraniana, dall'altro in qualche modo tentando, a mio parere, un goffo abbraccio verso la popolazione iraniana. Se non ci fosse stato l'abbattimento, era un pari e patta che in qualche modo accontentava forse entrambi le parti. E adesso? Sì, in realtà hanno fatto un autogol veramente, ma soprattutto ha fatto un brutto scherzo a Soleimani, nel senso che oggi tutti ricordano soprattutto la caduta dell'aereo, sì. E già c'è ancora il rammarico per la morte di Soleimani, però in realtà è uno schiaffo quasi che sono dati da soli Pasdaran, è un atto veramente che spero saranno in grado di recuperare rispetto alla credibilità che hanno recuperato negli ultimi anni verso la popolazione. Perché Soleimani è tanto famoso in Iran? Perché ha soprattutto combattuto lo Stato Islamico, e quindi sì. A differenza poi di altri reparti, magari dei Pasdaran, che sono associati alla popolazione, delle repressioni interne, è la faccia buona, se vogliamo, dei Pasdaran, e quindi è un autogol formidabile. Adesso vedremo come reagirà il paese è veramente sotto shock, è un paese molto complesso, quindi con diversi punti di vista, e credo, dal mio punto di vista, non ho visto nessuno ha detto questo, ma c'è stato anche un tentativo da parte di chi aveva protestato nelle proteste di novembre, di cui ancora non sappiamo moltissimo, di recuperare la piazza. Questa è stata un'occasione d'oro, devo dire. Certo, certo, assolutamente. Allora, complessità, forse questa è la parola d'ordine per chi si accinge a leggere di fatti iraniani e per chi ancora di più ci lavora, fa l'analista, fa lo studioso. Ci aiuta a capire, professor Mauriello, come dire, ipotizzando una stesura di una pagina di un Bignami, abbia pazienza, se devo svilire le sue competenze, però... il sistema di potere in Iran non è monolitico, no? Anche lo stesso gioco di equilibri che esiste per esempio fra l'Ayatollah Khamenei, alle cui dipendenze c'era direttamente la brigata Quds guidata dal generale Qassem Soleimani, e poi il presidente Rouhani. Di fronte ai rapporti per esempio con gli Stati Uniti abbiamo anche notato toni diversi da parte del presidente e da parte di Khamenei, come se molto spesso fosse più la guida spirituale a dettare la linea politica, il presidente a rincorrere su altri dossier il contrario. Ci aiuti a capire meglio com'è strutturato il potere iraniano? Ma in un certo senso l'ha descritto molto bene anche lei. Diciamo che faccio due differenziazioni. Anzitutto ci sono dei poteri elettivi democratici, certo poi il livello di democrazia lo possiamo discutere, sì. Ma per esempio i consigli comunali, il Presidente della Repubblica, il Parlamento e altri consigli importanti sono eletti direttamente dalla cittadinanza, sono moltissime elezioni, e il mese prossimo ci sono le elezioni in Iran, sì, parlamentari, il 21 febbraio. Importantissimo. Certo. E poi ci sono poteri, quelli che si chiamano i deep state, in realtà lo Stato non elettivo, perlomeno non eletti in maniera diretta. Io normalmente, per descrivere il potere, quando faccio lezione in maniera semplice, descrivo i vari poteri dell'Iran come se fossero delle sfere. E quindi, per esempio, il Presidente della Repubblica è una sfera, il leader è una sfera, il potere giudiziario è un'altra sfera. Per poterle spiegare il potere in Iran, le devo perlomeno descrivere e dettagliare 20 sfere, perché il potere in Iran è estremamente diffuso, al contrario del monolite che viene rappresentato all'estero, il potere è estremamente complesso, e spesso, paradossalmente, il leader è quello che prende la decisione finale, non la decisione iniziale. Sì. Per cui sono sicuro che la decisione finale di annunciare che l'aereo è stato abbattuto da Pasdaran l'ha presa il leader. Sì. Però dopo un consenso. Il sistema politico iraniano, il sistema di potere è estremamente consensuale, e questo a volte è un paradosso, un problema, nel senso che spesso non si riescono a prendere decisioni. Penso di nuovo alle proteste di novembre per il prezzo del petrolio, che è stato improvvisamente alzato invece di farlo in maniera ragionata. Perché? Perché ci si è messo... si è avuta paura delle reazioni della popolazione, e poi si è fatto il peggio in realtà. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, ancora una volta, se vogliamo usare un hashtag per l'Iran, questo è complessità. Proviamo a sfregare la sfera di cristallo. Cambierà qualcosa, secondo lei, nella strategia iraniana, professor Mauriello, nel Medio Oriente allargato? E intendo, dopo la morte di Soleimani, abbiamo visto, è stato eletto il suo successore, però potrebbe cambiare qualcosa, e mi riferisco evidentemente a tutta quella galassia di milizie sciite che sono spine nel fianco da un lato degli Stati Uniti, dall'altro per esempio di Israele. Io credo assolutamente di no, nel senso, come dicevo appunto, lei l'ha visto, le manie è stato il giorno stesso. In realtà in Iran nessuno è fondamentale, il potere è diffuso, l'Iran applica strategie a lungo termine, a differenza per esempio degli Stati Uniti, ha dei piani molto chiari. Evidentemente, a seconda di chi vince le presidenziali e poi il Parlamento, tra conservatori e riformisti cambiano un po', però soprattutto quelle di natura geopolitica e geostrategica sono molto semplici, nel senso vengono eseguite in maniera lineare. C'è stata questa risposta diretta agli Stati Uniti, dirette come sarebbe fatto l'Iran, sta dicendo che non siamo stati noi, si tornerà a questa cosa. Però le voglio dire una cosa, io vedo la rabbia nella popolazione, ma immagino che siano arrabbiati anche i Pasdaran, e risponderanno in maniera adeguata a questo danno che si sono fatti da soli, che però è stato, dobbiamo ricordare, causa dell'uccisione di Soleimani, e quindi poi della risposta

stiamo provando a tirare le fila su tre grandi dossier che sono sul tavolo, soprattutto europeo, devo dire, perché se pensiamo al dossier libico, ne parleremo in chiusura, a quello del Sahel, ve ne parlerò adesso, ma in parte anche quello iraniano, perché non dobbiamo dimenticare i grandi sforzi diplomatici, soprattutto della Francia, di Macron, gli incontri con Zarif, ve lo ricordate, a Biarritz, sulla costa atlantica francese, la patria del surf e anche la patria di nuove reti diplomatiche che Macron sta cercando di mettere in campo. E d'altra parte la domanda un po' che ci poniamo noi tutti è, con questo allontanamento, questa frizione continua con gli Stati Uniti, che ruolo può giocare l'Unione Europea o i singoli Stati Europei, quale ruolo possono giocare nel tentare di superare questo isolamento in cui l'Iran è costretto e di cui fanno le spese ovviamente i cittadini iraniani. Detto ciò, la prima cosa che facciamo adesso è farvi sentire la voce del ministro degli affari esteri del Mali, che in qualche modo fotografa quello che sta accadendo nel Sahel. C'est pas le combat du Sahel, c'est le combat de la communauté internationale tout entière. Et c'est en cela qu'il est heureux de saluer ceux qui, comme la France, sont engagés à nos côtés et ceux qui vont rejoindre cet engagement. Questa non è una guerra che riguarda solo il Sahel, è una guerra dell'intera comunità internazionale, lo ha detto Thiebile Dramé, il ministro degli esteri maliano. Siamo pronti a accogliere chi come la Francia vuole impegnarsi e tutti i paesi che vogliono impegnarsi sul territorio. Cosa sta accadendo in Sahel? Cosa sta accadendo in Europa? In Europa è presto detto. A Pau, che è una cittadina francese da cui partivano i militari uccisi qualche settimana fa, ricordate il tragico bilancio, era una base di elicotteristi, l'operazione Barkhane, quella che militarmente impegna la Francia con 4.500 uomini. E oggi è la giornata del summit, della riunione, il G5 cosiddetto del Sahel, sono i cinque paesi interessati, sono Chad, Niger, Burkina Faso, Mali e Mauritania, c'è Macron che fa le veci di padroni di casa, c'è Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, c'è il presidente della Commissione dell'Unione Africana Moussa Faki e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Perché è importante questa riunione? Perché le tante bande jihadiste stanno davvero mettendo in scacco alcuni di questi cinque paesi, in particolare quelli più fragili e più deboli. Cerchiamo di capirne un po' di più, lo facciamo con Camillo Casola, analista di ISPI, esperto di Sahel. Camillo, ben ritrovato qui nel suo luogo lontano. Buonasera, grazie. Allora, Macron ha convocato i presidenti di Burkina Faso, Mauritania, Mali, Niger, Chad, perché vuole chiarezza sulle posizioni. C'è stato un po' di malumore, ci sono state delle piazze, soprattutto a Bamako, addirittura si sono viste bandiere francesi bruciate, urla e cori contro la Francia, non vogliamo i coloni, se ne devono andare. E Macron si è detto, io voglio un pieno sostegno, altrimenti mando via le mie truppe. Cosa sta succedendo veramente? Beh, la situazione è sicuramente complicata, estremamente complessa. Il deterioramento, come diceva, della situazione securitaria in Sahel, dove l'attivismo dei gruppi armati jihadisti e la moltiplicazione degli attacchi diretti contro le forze armate degli eserciti nazionali, soprattutto, ha reso sempre più evidenti chiaramente le debolezze degli stati di rispondere a questo genere di minacce, soprattutto ha aggravato in qualche modo anche le pressioni in capo alla Francia, che come ricordava è presente nella regione nel quadro dell'operazione Barkhane, sì, dispiegata nel 2014 e che oggi conta circa 4.500 uomini. Sì. Ad accelerare probabilmente la decisione di Macron, la decisione francese di chiedere questa verifica, tra virgolette, per chiamarla così, insomma, sì, questa verifica della presenza militare francese nella regione, è stato probabilmente l'incidente occorso in novembre tra due elicotteri francesi che mentre erano a supporto di un'operazione sul terreno, un'operazione controterroristica sul terreno, si sono scontrati causando la morte di circa 13 militari, sì, francesi. Ecco, quell'episodio ha un po' messo in luce in qualche modo quello che è il peso sempre maggiore, la gravità sempre maggiore anche dell'impegno militare francese nella regione e il tributo di vite anche che la Francia, certo, paga, ha pagato, certo, e sta pagando. Questo ha spinto in qualche modo Macron a convocare il vertice di Pau. Il termine convocare in realtà non è casuale, lui sì, è stato accusato sì, da molte da molti opinionisti e anche da alcuni presidenti. Sì. Il presidente del Burkina Faso ha parlato di mancanza di tatto da parte, sì, di Macron. Sì. E più in generale è stato accusato quasi di modi neocoloniali o paternalistici, insomma, sì, convocando, sì, sì, gli stati della regione a Po. Ecco, le ragioni della convocazione del vertice di Po stanno in qualche modo nella necessità da parte di Macron di verificare se esiste ancora immutata la volontà politica degli stati saheliani di continuare, di dare anzi maggiore efficacia alla lotta controterroristica nella regione e soprattutto in qualche modo di rilegittimare, anche se non sotto un profilo giuridico ma sotto un profilo in qualche modo politico con la, certo, presenza militare francese, certo, nell'area, anche a fronte, come diceva, delle crescenti avversioni delle comunità locali, delle crescenti ostilità popolari nei confronti della Francia e nei riguardi dei militari francesi dispiegati nella regione. Sì. Ecco. La voce che state sentendo è quella di Camillo Casola, analista di ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, esperto di Sahel, e anche lui quest'oggi sta buttando un occhio a Pau, cittadina francese dove c'è una base di elicotteristi. 7 dei 13 militari uccisi venivano proprio da quella base lì. L'incidente a cui faceva riferimento Camillo Casola ha in qualche modo dato una svolta, una scossa anche alla politica francese. Ne abbiamo spesso parlato da questi microfoni, la guerra ha un costo e a un certo punto i morti in divisa spostano anche l'opinione popolare, fanno percepire quanto la guerra anche in luoghi apparentemente lontani possa essere pesante. 349-238-6666, un ascoltatore che fa tantissime domande su tutti i dossier che abbiamo toccato fino adesso, l'ultima riguarda quello del Sahel, e chiede: c'è un rischio che Boko Haram invii in Francia alcuni suoi terroristi per contrattaccare le truppe francesi in Mali, ma in realtà Boko Haram non opera esattamente in quella regione, è più spostato verso la Nigeria, anche se va a lambire il Chad, per esempio. Il rischio che è stato paventato da alcuni politici francesi è: attenzione, perché se noi non stiamo lì a tenere una linea difensiva ce li potremmo trovare in casa. Questa è una delle grandi razio che stanno alla base anche dell'impegno francese, oltre ai vari interessi economici. Camillo Casola, le propongo un piccolo esercizio intellettuale, perché se abbiamo detto dell'allergia di alcuni maliani rispetto alla presenza militare francese, le faccio sentire invece la voce di Khalil Sarmoye Sissé, che è il presidente della sezione giovanile del Groupe du Patriot du Mali, che invece agognano una presenza militare di tutt'altra natura. Sentite. Mi chiamo Khalil Sarmoye Sissé. Sono il presidente della sezione giovanile del Groupe du Patriot du Mali. La nostra associazione ha lanciato una petizione per chiedere alle autorità di stringere un accordo con i russi. Abbiamo lanciato il nostro gruppo a gennaio 2016 e abbiamo raccolto 8 milioni di firme per aumentare la pressione sulle autorità maliane, per chiedere un accordo con i russi per trovare una soluzione definitiva, soprattutto per quanto riguarda il problema della sicurezza. Quello che chiediamo è una migliore formazione per il nostro esercito, fornire equipaggiamenti e mezzi logistici adeguati. Insomma, da qualche parte c'è qualche voce che si organizza, voce maliana, e che chiede l'intervento russo. Camillo Casola, è una storia che abbiamo già visto in alcuni paesi africani. Normalmente Mosca cosa fa? Inizia a vendere armamenti, credo che in Mali si siano venduti almeno un paio di elicotteri abbastanza recentemente, e poi tenta in qualche modo di influenzare anche la politica interna. C'è questo rischio secondo lei? Sicuramente il primo punto a mio avviso da evidenziare è che, come accennava, il crescente sentimento filorusso che si evidenziava anche nell'intervento appena ascoltato non è limitato al Mali, non è limitato al Sahel, ma a molte, sì, altre aree del continente. Sì. E questo sentimento filorusso fa leva, a mio modo di vedere, su due elementi in particolare. In primo luogo l'assenza di un passato coloniale della Russia, sì, e quindi in qualche modo la Russia è vista come una potenza in grado di intervenire, ma scevra in qualche modo da condizionamenti legati ad una passata presenza coloniale nel continente o culti, per così dire. E in secondo luogo l'immagine, la narrazione che vuole nella Russia di Putin una potenza militarmente assertiva, capace di contrastare in maniera più efficace questo tipo di minacce alla sicurezza degli stati, sì, come appunto la minaccia posta dai gruppi jihadisti nella regione, di quanto non abbia dimostrato finora di poter fare la Francia. Sì. E è utile, come lei faceva, anche ricordare il fatto che la presenza russa nella regione si traduce nell'esistenza di alcuni accordi di cooperazione militare attualmente in vigore con Mali, Niger, Burkina Faso e Chad in particolare, e nella vendita di alcune decine di tonnellate di armi tra 2014 e 2018, ad esempio, in Mali. Quindi una presenza che in qualche modo esiste, sì, anche se finora non è stata, per così dire, trascendentale. Sì, non ha, sì, diciamo che questa, sì, ecco, per il momento non si sta esprimendo tutto il potenziale politico, diciamo, di cambiamento politico, che questa invece un po' più sotterranea presenza, fatta soprattutto a suon di addestramento e di armi, Mosca sta tentando di mettere in atto in Africa. Ne torneremo a parlare, sì, non c'è dubbio, e magari già da domani cercheremo di fare un bilancio del vertice di Po, è in corso esattamente in questi minuti, in queste ore, e quindi probabilmente ci risentiremo molto presto. Grazie mille Camillo Caso, l'analista di ISPI. Buona giornata, buon lavoro. Filippo Reggi cosa dice? Andiamo sulle strade italiane, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun Luogo, Nessun Luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano resta da analizzare un po' più diffusamente in profondità il dossier libico, con tutto quello che sta accadendo, una girandola da un lato di viaggi diplomatici, dall'altro di summit, di incontri. Quello che sta accadendo per il momento è che le armi hanno cessato di parlare, c'è una bozza che sta girando, la potrebbero firmare molto presto Haftar e Sarraj, che, come sottolineava anche con un pizzico di ironia un ascoltatore al 349-238-6666, sono volati a Mosca in tempi diversi, si sono visti con Putin ma non si sono stretti la mano. Un po', sottolineava l'ascoltatore, ricordo, ribadisco con ironia, guarda un po' come è successo a Roma, salvo che a Roma Sarraj non c'è nemmeno atterrato perché ha tirato dritto verso Tripoli. Un po' di domande arrivate al 349-238-6666, ma in questi paesi la presenza militare europea è per necessità di difesa politica o ci sono interessi economici? Beh, gli interessi economici francesi sono evidentissimi, sto pensando a tutti i giacimenti di uranio in Niger soprattutto, e poi c'è quell'aspetto coloniale che Camillo Casola di ISPI ha ben sottolineato, esiste, come dire, una storia che pesa anche sulle spalle dei francesi, una presenza consolidata anche dal punto di vista culturale, basta andare anche magari in cittadine minori, piccole, per trovare l'istituto di cultura francese, faccio un esempio. Tenete conto che sono paesi francofoni, c'è una diaspora di questi paesi che vive per esempio a Parigi, insomma c'è un cordone ombelicale che è difficile da staccare, da spezzare. Ma ripeto ancora una volta, i 13 militari morti, oltre a tutte le altre vittime civili africane e locali, hanno in qualche modo segnato un punto di svolta, e qua Macron, e oggi in questi minuti ne sta discutendo, vuole capire se quelle vite valgono l'impegno profuso fino adesso e se si deve andare avanti. Ultimi minuti di trasmissione, 349-238-6666. Ma Russia e Turchia vanno in giro per il mondo per distrarre le loro popolazioni dai gravi problemi interni, così Gianni. Beh, la Russia va in giro per il mondo con grande spregiudicatezza, soprattutto per distrarre o cerca di influenzare le elezioni politiche, come è accaduto in Madagascar, ma ci sono anche casi più recenti e più vicini, per esempio, oppure fa vendita di armi, addestramento, istruttori, mercenari, è il caso della Wagner. Proprio la Wagner è oggetto di una serie di speculazioni da parte di analisti, ma anche da parte del mondo politico. In Italia si è a lungo negato che vi fossero i mercenari, i contractors della Wagner, di questa società russa che per il Cremlino non esiste, ufficialmente non esiste, ma fa il lavoro sporco, fondamentalmente, che è uno degli attori presenti sul terreno libico. Proviamo a ricapitolare quello che sta accadendo. Prima di presentare il prossimo ospite, vi faccio sentire la voce di Giuseppe Conte, che ieri ha visto Sarraj. L'Italia, vorrei ricordarlo, ha sempre linearmente, coerentemente lavorato per una soluzione politica. Soluzione politica, sicuramente ci ha lavorato anche Vladimir Putin, lo ripeto, ha invitato a Mosca Sarraj Haftar, e pace sembra quasi scoppiata, ma con quali conseguenze? Buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano a Natalie Tocci, dirige l'Istituto di Affari Internazionali. Tocci, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno. Professoressa, allora, evoluzione costante, continua, ogni ora non è uguale all'altra, però un primo commento: a Putin è riuscito quello che all'Italia non è riuscito di fare, cioè non dico far stringere la mano ai due, ma almeno farli sedere in tempi diversi nella stessa stanza. Ma sicuramente quando un conflitto come quello in Libia è nella propria fase, chiamiamola militare, no? Diciamo di violenza accesa e attiva, inevitabilmente gli attori che hanno le carte da giocare sono gli attori che sono militarmente presenti o comunque attivi in un conflitto. E in questo senso sappiamo bene che naturalmente al di là delle parti dirette in conflitto, e quindi il governo di Tripoli e il generale Haftar, e gli attori regionali, diciamo gli attori esterni che hanno un ruolo sono Erdogan e Putin. Sì. Quindi non è il tema se Putin è più bravo di Conte a far stringere la mano o comunque a ottenere un cessate il fuoco. Il punto è che Putin ha delle leve che l'Italia non ha. E allora la riflessione che dovremmo fare come italiani ma come europei è: vogliamo essere della partita sì o no? E se sì, in che modo? Perché è troppo facile, sì, semplicemente parlare di dialogo, certo, però se qui non ci si vogliono mettere delle chip sul tavolo, ecco, possiamo parlare. Perfetto, perfetto. Allora, mi piace molto, professor Satocci, lo ricordo, dirige l'Istituto di Affari Internazionali, questa metafora ardita ma anche gustosa, perché è colorita. Allora, che fish mettiamo sul tavolo? Cioè l'Italia che cosa può offrire ai due contendenti, a un al-Sarraj, a un Tripoli così fragile e a un apparentemente adesso tronfio e forte Haftar che ha avanzato tanto sul terreno? Ma allora, l'Italia in quanto Italia molto poco, quindi diciamo in ogni caso bisogna ragionare in un quadro europeo. In un quadro europeo, avendo ottenuto, non grazie a noi, ma grazie appunto purtroppo diciamo a Putin e Erdogan, temporaneamente perlomeno c'è stato il fuoco, la discussione a mio avviso dovrebbe essere precisamente sulla necessità di mettere una missione militare nel terreno per consolidare questo cessate il fuoco e trasformarla quindi diciamo da un cessate il fuoco a una fase di stabilizzazione del paese. Sì. Quindi, naturalmente questo ha un costo, ha un costo economico, certo, ha naturalmente un rischio, sì, ma ripeto, se non vogliamo assumerci dei costi e dei rischi non possiamo poi pretendere di avere un ruolo nella partita. E nemmeno alcun beneficio, noi abbiamo tutto da perdere dalla destabilizzazione della Libia, questo è evidente, c'è stata un'inazione, un'inerzia dei vari governi italiani rispetto al dossier libico, io credo francamente colpevole, ma è una mia opinione personalissima. Però ancora una volta, professor Satocci, lei in qualche modo mi sembra stia dando ragione al ministro Di Maio, che ieri sulla stampa diceva: forza di interposizione militare magari sotto egida Unione Europea sullo stile dei caschi blu UNIFIL, missione UNIFIL, e si riferiva al Libano. Ma lei ce li vede i paesi europei che si mettono d'accordo per fare una missione militare europea in tempi brevi? Perché poi andrebbe fatta in tempi brevi, credo, eh. Ma mi verrebbe da dire questo, se non in Libia allora dove? Cioè sono oramai sì, 5 anni che sì, parliamo di difesa europea, sì, di un'Europa della difesa, e comunque, e questo lo so avendoci lavorato dall'interno, effettivamente delle capacità ci sono. Sì. Il tema è la volontà politica, ma non tanto a mettersi d'accordo perché ci sono differenze, via dicendo, quanto ad assumersi dei costi. Cioè qual è il nostro problema come Italia e come Europa? È che siamo stati abituati a vivere diciamo in un mondo in cui sostanzialmente erano gli americani che si occupavano di determinate questioni. Tant'è che adesso non facciamo altro che reclamare a gran voce il libero ruolo degli americani. Americani sì, che ci dicono: ciao, non abbiamo nessuna intenzione di venire. E quindi qua, ripeto, o noi o Putin, Erdogan e chi per loro, insomma. Sì. Quindi è una questione di assumersi determinate responsabilità. Le capacità ce le abbiamo, il tema è se abbiamo una volontà politica di utilizzarle. Sì, è stata chiarissima. Insomma, prendersi le responsabilità e, come dire, uso un'espressione fin troppo prosaica che normalmente da questo microfono non pronuncio, mostrare gli attributi, per una volta avere una potenza, chiedo scusa, una politica estera un po' più muscolare. Abbiamo una forte proiezione militare, dei talenti, delle abilità tattico-strategiche che ci vengono riconosciute dalla comunità internazionale, non lo traduciamo in spinta politica, in affermazione politica. Grazie mille. Natalie Tocce dirige l'Istituto di Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro. Filippo Oreggi, scommetto che sei quasi arrabbiato con me e mi dai un ordine. È perché ero in ritardo di 5 secondi, quindi giustamente. L'ordine serve a lanciare i titoli di coda, a ringraziare voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.